Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Buonasera da Sebastiano Barisoni, puntata speciale quella di oggi, del primo maggio, di Focus Economia, puntata che durerà un'ora, quindi terminerà alle 18, e puntata in cui cercheremo di ripercorrere quello che è successo nelle ultime settimane. Perché lo dico? Perché ci sono dei momenti nella storia in cui la storia conosce un'accelerata vera e propria, in cui tutto si sviluppa dopo essere rimasto fermo, quasi fosse una forza centrifuga. E questo è avvenuto, diciamo, dallo scorso lunedì 22 aprile, dopo oltre 40 giorni di attesa dall'esito elettorale. Abbiamo avuto nell'ordine il neo presidente, che poi neo non è perché è la conferma di Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, ha in rapida successione la designazione di Enrico Letta come che ha accettato con riserva, e poi anche lì in rapidissima sequenza il neo presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha sciolto la riserva, ha indicato la lista dei ministri e ha indicato soprattutto le priorità di governo. È chiaro che qua ci occuperemo delle priorità economiche, ma devo dire che, vista la situazione, le due cose, praticamente, se escludiamo la riforma della legge elettorale, la riforma dei rami del Parlamento, quindi la riduzione dei parlamentari, tutto il resto dell'azione di governo è un'azione di governo di carattere di politica economica o politica industriale o politica finanziaria. Andiamo con ordine. Lo scorso lunedì 22 aprile, abbastanza sorpresa, dopo che erano tramontate in maniera anche brutale alcune candidature, il 12° presidente della Repubblica è di nuovo Giorgio Napolitano. Non era mai successo che restasse un presidente della Repubblica per un nuovo mandato. E il Parlamento, riunito in seduta comune, ascolta il giuramento e il suo discorso da neoeletto, si fa per dire. Allora, abbiamo avuto anche la tentazione di mandare in onda integralmente l'intervento del Presidente della Repubblica, tanto è stato evocativo, toccante, sferzante nei confronti dei parlamentari, che continuavano ad applaudire. Questo lo sappiamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto ascoltare anche in diretta. Allora, comunque, l'inizio: il Presidente della Repubblica, come è anche di protocollo, di prammatica, ringrazia il Parlamento per il largo suffragio e per la fiducia che ha a lui dimostrato. Onorevoli deputati, onorevoli senatori, signori delegati delle regioni, lasciatemi innanzitutto esprimere, insieme con un omaggio che in me viene da molto lontano alle istituzioni che voi rappresentate, la gratitudine che vi debbo per avermi, con così largo suffragio, eletto Presidente della Repubblica. È un segno di rinnovata fiducia che raccolgo, comprendendone il senso, anche se sottopone a seria prova le mie forze. E apprezzo in modo particolare che mi sia venuto da tante e tanti nuovi eletti in Parlamento, che appartengono a una generazione così distante e non solo anagraficamente dalla mia. So che in tutto ciò si è riflesso qualcosa che mi tocca ancora più profondamente, e cioè la fiducia e l'affetto che ho visto in questi anni crescere verso di me e verso l'istituzione. E poi, questo è il primo passaggio che vi abbiamo fatto ascoltare, poi il passaggio in cui il Presidente della Repubblica ha chiarito che non prevedeva, e diciamolo tutto, non era neanche sua intenzione essere rieletto. Non prevedevo di tornare in quest'Aula per pronunciare un nuovo giuramento e messaggio da Presidente della Repubblica. Avevo già nello scorso dicembre pubblicamente dichiarato di condividere l'autorevole convinzione che la non rielezione al termine del settennato è l'alternativa che meglio si conforma al nostro modello costituzionale

Occorre prendersi cura dei giovani, volgendo il disagio in speranza, puntando su orientamento e stimolo all'imprenditorialità. Infine ancora due passaggi. Quello che riguarda la lotta all'evasione, sacrosanta, ha detto Enrico Letta, basta con i sacrifici per i soldi noti. Questo significa ferrea lotta all'evasione, ma senza che la parola Equitalia faccia venire i brividi alla gente. Si tratta di fare una politica industriale moderna che valorizzi i grandi attori, ma anche e soprattutto le piccole e medie imprese, che sono e rimarranno il vero motore dello sviluppo del nostro Paese. La burocrazia non deve opprimere la voglia creativa degli italiani ed è per questo che bisognerà rivedere l'intero sistema delle autorizzazioni. Per snellire le procedure e avere fiducia in chi ha voglia di investire, creare e offrire posti di lavoro, non si possono più chiedere sacrifici sempre e soltanto ai soliti noti. I sacrifici sono socialmente sostenibili solo se sono ispirati a un principio di equità. Questo significa coniugare una ferrea lotta all'evasione con un fisco amico dei cittadini, senza che la parola Equitalia debba provocare dei brividi quando viene evocata. Chiudiamo questa sintesi dell'intervento di Enrico Letta, oltre che quelli di Giorgio Napolitano e di Romano Prodi, con un invito che a me è suonato come una promessa e riguarda i costi della politica, che non sono significativi se presi i conti pubblici tout court, ma sono molto simbolici e significativi quindi per dare un senso di serietà e di vicinanza al paese che stringe la cinghia quando ce l'ha ancora la cinghia. Ha detto Enrico Letta nel discorso a Montecitorio, occorre abolire il finanziamento pubblico ai partiti e va rivoluzionato il sistema di finanziamento stesso. Aveva anche annunciato di eliminare lo stipendio da ministro per quei ministri che sono già parlamentari. Sentiamo il passaggio. La riduzione dei costi della politica diventa un dovere di credibilità. Pensate ai rimborsi elettorali. Tutte le leggi introdotte dal 1994 ad oggi sono state ipocrite e fallimentari. Non rimborsi, ma finanziamento mascherato. Per di più, di ammontare decisamente troppo elevato, come la Corte dei Conti ha recentemente confermato. 2,5 miliardi di euro dal 94 al 2012, a fronte di spese certificate di circa 0,5 miliardi. E questa solo una delle conferme del fatto che il sistema va rivoluzionato. Partiamo dunque dal finanziamento pubblico ai partiti, abolendo la legge approvata e introducendo misure di controllo e di sanzione anche sui gruppi parlamentari e regionali. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Buon primo maggio. Il programma torna domani, come sempre, dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, che voi lavoriate o che festeggiate il primo maggio, comunque un augurio di buona serata.